in primo piano. Buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, che oggi hanno quasi tutti la stessa apertura, che è quella sulle dichiarazioni del ministro degli interni Marco Minniti ieri, che ha risposto con molta energia alle critiche che gli sono state mosse per quello che viene definito una linea dura contro l'immigrazione clandestina. E con questo ringrazio gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi, in particolare c'è un ascoltatore da Sydney, dove è pomeriggio, ovviamente ci sono 21 gradi, Luca, buongiorno a Luca. Quindi 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp o SMS, e all'ascoltatore che ogni giorno praticamente su Twitter mi ricorda che in Italia c'è il reato di immigrazione clandestina e che appunto quindi l'immigrazione clandestina è tecnicamente un reato in Italia. Ecco, oggi l'ho detto, così forse si tranquillizzerà su questo. Sappiamo che è una legge molto controversa, la cosiddetta Bossi-Fini, e che non ha facilitato, come abbiamo visto, la lotta all'immigrazione clandestina, per l'appunto. Ma dicevamo, cominciamo però dal Sole 24 Ore, che ha naturalmente anche nelle pagine interne la questione dell'immigrazione, però apre sul tema del debito pubblico. Sapete che in Italia abbiamo uno dei più alti debiti pubblici al mondo, in assoluto ma anche in percentuale e in rapporto con il PIL. Quello che dobbiamo fare, che molti governi hanno dichiarato di voler fare e poi non necessariamente sono riusciti a fare, perché se il PIL non cresce, il debito come ogni nominatore, quindi nella frazione il debito aumenta e quindi aumenta anche quella percentuale tra debito e PIL, però ora che forse il PIL aumenterà un po' e soprattutto grazie anche alla situazione attuale degli interessi, Isabella Bufacchi ci spiega sia con tutta una serie di dati che con un'analisi che poi trovate a pagina 3, costo del debito in risalita, ma i bot sono da record a meno 0,30%. C'è un'ipotesi di buyback, perché il nostro Ministero del Tesoro in questo momento ha molta liquidità per ridurre appunto il rapporto debito-PIL. Uno può pensare che la cosa non ci riguardi, in realtà il debito pubblico è come una specie di macigno che pesa su tutti noi in proporzione. In prima pagina richiamata anche un'inchiesta interessantissima che poi trovate a pagina 4 di Sissi Bellomo, con anche un intervento di Roberto Darin per quanto riguarda la Bolivia, ed è una ricognizione sui paesi che hanno le grandi miniere di litio e cobalto. Il litio in particolare, oltre a essere un componente dei computer, delle batterie, sappiamo, è anche componente delle batterie per le auto elettriche, e viste le previsioni che ci sono e anche le volontà di molti governi e di molte città di introdurre delle sorta di obblighi per rinnovare il parco auto e rimpiazzare le auto a benzina o a diesel con auto elettriche, quello delle batterie al litio e del litio e delle miniere da cui viene estratto diventa una questione molto importante. Ci lasciamo però un attimo per la prima pausa sul traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta in primo piano. Rieccoci, ben ritrovati. Abbiamo visto la prima pagina del Corriere del Sole 24 Ore. Come vi dicevo, quasi tutti gli altri giornali aprono invece sulla questione dell'immigrazione. Quindi il Corriere della Sera ha un virgolettato di Gentiloni, perché il Premier ieri, che è sembrato un po' titubante nella giornata precedente perché ha dovuto assistere a quello che i giornali descrivevano come uno scontro tra il Ministro delle Infrastrutture Delrio, che ha la responsabilità della Guardia Costiera e per questo è intervenuto sul tema dell'immigrazione, e il Ministro dell'Interno Marco Minniti, ieri Gentiloni invece ha detto chiaramente il codice, questo nuovo codice per le ONG introdotto, voluto dall'Italia, che sappiamo ha suscitato così tante polemiche. Alcune ONG molto importanti come Medici Senza Frontiere non l'hanno ancora firmato, ma Gentiloni ha detto questo codice frena gli sbarchi. Intanto però altre ONG ieri hanno in effetti firmato. In prima pagina sul Corriere della Sera anche una fotonotizia che richiama poi un lungo articolo a pagina 17 sulla morte tuttora misteriosa di Mattia Dall'Aglio. Aveva soltanto 24 anni, era un nuotatore professionista, si stava allenando in una palestra di Modena e è stato trovato morto. Non si capisce ancora veramente come sia successo. Non ci sono ancora i risultati dell'autopsia. Questo offre anche lo spunto al Corriere, ma anche ad altri giornali, per cercare di capire quali sono i rischi che si corrono in alcune palestre, dove magari vengono anche, oltre a esserci dei programmi di allenamento fatti dai personal trainer, magari vengono anche dati degli integratori o sostanze che poi possono nuocere alla salute delle persone, se non c'è stato tra l'altro tutta una serie di esami prima. La Repubblica, Minniti, sui migranti serviva una svolta, e anche qui la notizia che altre ONG hanno firmato il codice. Poi la Repubblica mette tutto insieme, quindi nella seconda riga del titolo principale c'è: firmano altre ONG, Lega contro il Colle. Avete sentito, Matteo Salvini ha criticato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la commemorazione della strage di Marcinelle, dove morirono moltissimi minatori che erano degli immigrati italiani. Spesso si cerca di ricordare che anche noi italiani siamo stati immigrati in passato. Si pensi per esempio anche a tutta l'immigrazione verso l'Argentina, verso il Venezuela, e Salvini ha detto appunto che non è d'accordo con questo parallelo tra gli immigrati attuali e quello che invece facevano gli italiani anni fa. Poi c'è anche una polemica non so se noiosa, fastidiosa o inutile, in ogni caso, tra Saviano e Salvini. Forse lo ricorderete, abbiamo letto l'articolo di Saviano di 3 giorni fa, dove tra l'altro sullo stesso numero di Repubblica c'era la maca di Michele Serra, che sostanzialmente forse il giorno prima diceva il contrario di quello che diceva Saviano, cioè che lo Stato con le misure decise dal ministro dell'Interno Marco Minniti sta facendo quello che ci si aspetta da uno Stato, cioè di intervenire, di dare delle regole e anche di usare la giusta forza, naturalmente, che non significa violenza, da qui anche per esempio la tanto contestata norma del codice per avere a bordo delle ONG un rappresentante dello Stato, delle forze dell'ordine. Non credo che Medici Senza Frontiere, per esempio, che contesta questa misura, possa pensare, di fronte agli scafisti che non sono esattamente delle educande, di cercare il dialogo, perché si tratta di trafficanti di uomini, di persone che si macchiano di un delitto orribile. In ogni caso, Saviano appunto aveva criticato molto duramente, con delle parole molto dure, Salvini. Ieri gli ha detto che Saviano ha di nuovo dichiarato che Salvini eccita i razzisti, e Salvini ha risposto che se per caso la Lega andrà al governo, una delle prime cose che farà, toglierà la scorta a Roberto Saviano, che sappiamo soprattutto per il suo primo libro Gomorra ha avuto la scorta, perché ha ricevuto numerosissime minacce da parte di esponenti della Camorra. Questo è il livello del dibattito a distanza tra Saviano e Salvini. La fotonotizia però della Repubblica è dedicata alla Corea. Vedremo anche sui giornali stranieri, ha fatto molto effetto le ennesime minacce della Corea, ma soprattutto il video in cui Donald Trump ha minacciato la Corea, perché la sua espressione è veramente molto decisa. Ricorda un po' quello che successe quando si cominciò a pensare negli Stati Uniti, insieme a una coalizione, di fare guerra all'Iraq. È uno scenario inquietante, e quindi la Repubblica dà spazio sia alle dichiarazioni della Corea, cioè avrebbero questa mini atomica per colpire gli Stati Uniti, e poi alla replica di Trump: basta provocazioni, saranno fuoco e furia mai visti. La Stampa, migranti, prova di forza di Renzi. La Stampa tira in ballo un po', anche qui si tratta un po' di retroscena di come si starebbe muovendo Matteo Renzi, presidente del PD, in questo apparente scontro all'interno, o comunque divergenze all'interno del governo, tra la linea di Minniti e quella di Del Rio. La fotonotizia però è dedicata a McDonald's, perché McDonald's, la più grande catena di fast food americana, ora ha grandi piani per la Cina. Sapete che invece negli Stati Uniti è in difficoltà, perché sta cercando accusata di essere una delle cause dell'obesità negli Stati Uniti, sta cercando di riconvertirsi, di offrire dei menu più light o comunque che includano anche cibi meno calorici o più sani. E però in Cina intanto ha dei piani per aprire, ha raddoppiato i piani per aprire i ristoranti, quindi gli investimenti avrebbero dovuto essere 2.500, saranno invece 4.500 in 5 anni, lontano dalle grandi città, che poi naturalmente definire una grande città in Cina, perché qui parliamo di megalopoli e ce ne sono tantissime, da 10-12 milioni di abitanti. Il Messaggero: Minniti, due punti, l'accoglienza ha un limite. Quindi Minniti è tornato a spiegare il perché di questa linea che ha adottato da quando è ministro degli interni. Poi vi segnalo anche per il Messaggero in prima pagina il botta e risposta tra Corea del Nord e Stati Uniti. Il Messaggero mette in prima pagina anche una notizia che poi trovate anche su altri giornali all'interno, cioè che c'è stata una bocciatura per lo stadio da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il piano per il nuovo stadio di Roma, che avrebbe dovuto sorgere a Tor del Valle. C'è soprattutto in questo momento un problema di viabilità. E poi un caso, quando si parla di malasanità, più di questo naturalmente andrà tutto verificato, però direi che qui veramente la definizione è giusta. In un ospedale della capitale, il pronto soccorso in particolare dell'ospedale Sant'Andrea, il primario è in vacanza, il suo vice non c'è, e quindi a gestire quello che è sempre un po' il caos del pronto soccorso. Il pronto soccorso credo che sia il reparto di un ospedale più difficile da gestire. Sono stati chiamati soprattutto gli infermieri e poi anche le guardie giurate. L'Avvenire, che viene tra l'altro citato per aver molto criticato il governo sulla questione del codice delle ONG, oggi L'Avvenire non ha in prima pagina quella questione, ma torna invece sul forum delle famiglie. Il forum delle famiglie ha chiesto al governo più misure a favore appunto delle famiglie, e ancora oggi L'Avvenire si fa portavoce di questo forum famiglia, progetti e interventi subito. In prima pagina anche, praticamente L'Avvenire è l'unico giornale che oggi lo fa con questa enfasi, il Venezuela, perché la costituente voluta da Maduro, che è una sorta di Parlamento parallelo, sostitutivo, eletto come sappiamo con molte ombre, non si capisce quante persone abbiano votato, non si capisce neppure se chi ha votato poi, se i voti che poi sono stati effettivamente fatti, se i voti che effettivamente sono arrivati sono poi stati contati, calcolati in modo giusto e senza brogli. A fronte di tutto questo, questa costituente si è insediata ieri in Parlamento. E in prima pagina anche lo studio di cui sentivate parlare anche nella controcopertina molto interessante di Gigi Donelli, questo studio americano che certifica una cosa che in molti sostenevano, non Donald Trump e i suoi consiglieri, cioè che il riscaldamento globale è in effetti colpa dell'uomo. Il Giornale: Dio si vergogna del governo, la scomunica dei vescovi. Ecco, appunto, questo era quello che il Giornale definisce il duro attacco di Avvenire contro il codice per l'ONG. Ripeto, oggi non è in prima pagina, nei giorni scorsi sicuramente ci sono state delle critiche, ma non parlare di scomunica mi sembra un po' esagerato. Poi la prima pagina invece del Fatto Quotidiano, un'analisi di quella pratica orrenda che c'è in Italia, che è il cambio di casacca cosiddetto. Grazie ai dati di Open Police, che è un'organizzazione indipendente, ha analizzato questi 4 anni di legislatura scoprendo non soltanto quanto poco molti parlamentari vanno in Parlamento, e anche quanti appunto hanno cambiato gruppo, cambiato partito. lo ricordiamo naturalmente nella Costituzione, questo non è vietato, non c'è il vincolo di mandato, però è comunque una pratica che in Italia arriva a dei numeri che negli altri paesi, penso alla Germania, perché conosco un pochino quel sistema politico, ma anche in tanti altri paesi sarebbero veramente impossibili. Libero, salvateli pure, ma non portateli a casa nostra. Questo è un po' il titolo che riassume i due articoli, uno di Vittorio Feltri, il direttore di Libero, chi recupera un nero poi se lo tenga, e l'altro di Pietro Senaldi, che invece commenta la vicenda, appunto, dicevamo, della tragedia di Marcinelle. Ieri era il 61esimo anniversario di questa tragedia, e questa miniera in Belgio, dove persero la vita 136 lavoratori e altri 136 italiani e altre 126 persone di altre nazionalità. Il manifesto Fuochi a mare è un titolo che vuole un po' ricordare il titolo del documentario Fuoco a mare, era un documentario in realtà, non so se è proprio la definizione giusta, comunque un lungometraggio che raccontava delle vicende di Lampedusa e di come Lampedusa ha affrontato tra l'altro con un sindaco all'epoca in cui è stato girato questo cortometraggio, che non è stato rieletto, come Lampedusa cerca di, che è uno degli avamposti nel Mediterraneo, dove appunto sbarcano moltissimi immigrati, come si cerca di affrontare questa emergenza. La verità, Alfano e Gentiloni finanziano l'ONG al centro dell'inchiesta, il riferimento è a Save the Children, che, come ha anticipato il Fatto Quotidiano due giorni fa, è appunto sotto inchiesta per aver avuto contatti con gli scafisti da vari politici, compreso Angelino Alfano e Gentiloni, quindi anche dal governo. Save the Children ha ricevuto 2,5 milioni di euro dai ministeri, appunto, degli esteri quando Gentiloni era ministro degli esteri. Ricordiamo però Save the Children, sicuramente questa inchiesta va seguita, vedremo che cosa la procura di Trapani poi a che conclusioni arriverà. Save the Children però, basta guardare la sua storia, è una ONG estremamente meritoria, che soprattutto in Africa localmente ha fatto tantissimo, in particolare appunto per i bambini. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, ovviamente non tutti positivi, non tutti elogiativi, anzi, e soprattutto per quanto riguarda le parole del Presidente Mattarella, hanno suscitato in effetti molte reazioni, molte delle quali, la maggior parte delle quali, almeno quelle che arrivano qui con i messaggi, negative, perché viene contestato questo paragone tra l'immigrazione di oggi, in particolare dall'Africa verso l'Europa, e quella che c'è stata dall'Italia verso altri paesi in altre epoche, come abbiamo visto 50, 60, 70 anni fa. Torniamo sui prime pagine dei giornali, vi segnalo Il Giorno. Qui, questo è un personaggio che credo tutti noi abbiamo sentito nominare, di cui tutti noi abbiamo visto fotografie o magari video su internet, e parlo di Gianluca Vacchi. Il Giorno lo mette in copertina, in prima pagina, perché avrebbe appena chiuso un contenzioso da 10 milioni e la Banca Popolare di Milano, l'ex Banca Popolare di Milano, ora Banco BPM, si sarebbe preso ville, barche e le quote del golf di quello che lui stesso si chiama Mr. Enjoy, cioè uno che si gode la vita. Il re dei social rischia l'effetto domino con altri creditori, un conto da decine di milioni. E alle pagine 2 e 3 trovate un po' tutta questa inchiesta sulla situazione economica, soprattutto di Gianluca Vacchi. E la cosa curiosa è che poi sulla Stampa, pagina 23, trovate un altro titolo su Vacchi. Questo è il cugino Alberto Vacchi, che in realtà è un imprenditore dell'azienda di famiglia, la IMA, ha delle quote anche Gianluca Vacchi, ed è da lì in realtà che trae la maggior parte dei fondi per questa sua vita così enjoyable. Ma intanto Alberto Vacchi, che appunto è il cugino del più noto socialmente Mr. Enjoy, sta portando in Piazza Affari, sta per quotare la controllata Gima TT, che è attiva nel confezionamento di sigarette a rischio ridotto. Quindi da una parte c'è l'imprenditore e tra l'altro la IMA è un colosso bolognese, una grande azienda, e dall'altra appunto abbiamo questo cugino un po' scapestrato. Il Foglio si dedica anche oggi alla questione dell'immigrazione con un altro intervento di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio. I demagoghi dell'immigrazione, gli ideologi politici mascherati da filantropi sono fanatici profittatori dell'ansia, gli sputtanatori degli umanitari mortificano la responsabilità etica. Quindi ne ha un po' per tutti, insomma, anche appunto a chi ha parole troppo dure, come dicevamo per esempio per Save the Children. C'è un'inchiesta, aspettiamo gli esiti di questa inchiesta, ma Save the Children resta una ONG serissima. A tutti serve un ripasso di Weber, Max Weber, naturalmente il grande sociologo, calcola le conseguenze di ciò che ritieni in tuo dovere di fare. Un commento anche sulla possibile introduzione, per ora è prevista solo una sperimentazione in alcune scuole, del liceo breve, cioè un liceo che da 5 anni ne duri 4. Il commento è di Salvatore Merlo, è molto critico verso l'attuale ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, come fare di tutto per non essere all'altezza. Le pagine di alcuni quotidiani stranieri, come ogni giorno, la Frankfurter Allgemeine, il quotidiano tedesco, oltre a tutte le questioni di politica interna che continua a seguire con molta attenzione perché la Germania va verso le elezioni politiche, mette in prima pagina anche due notizie di politica estera. Una è quella che viene dal Sudafrica. Ieri il presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, ha superato un voto di sfiducia, l'esito non era così scontato, quindi resta al suo posto, e invece il Giappone, che a sua volta si sente minacciato dalla Corea del Nord. Il Giappone è geograficamente naturalmente è molto più vicino alla Corea del Nord degli Stati Uniti. Le tensioni non sono certo di questi giorni, risalgono, sono antiche. E appunto la Frankfurt approfitta di, anche se vogliamo appunto, di quello che sta succedendo con gli Stati Uniti, per ricordare che anche con il Giappone c'è un'altissima tensione con la Corea del Nord. Le Figaro apre su questa dichiarazione di fuoco e furore promesso da Trump contro la Corea del Nord, mentre la stessa cosa fa il Guardian. North Korea, Trump vows to answer nuclear threats with fire and fury. E qui fa impressione sia sul Guardian che sulla prima pagina del Washington Post, perché c'è questo video nel caso del Washington Post di 37 secondi dove Trump appunto fa queste dichiarazioni, e effettivamente incute un certo timore. È sicuramente molto deciso Donald Trump, e qui scusatemi se sorrido, però io mi diverto moltissimo, qualche volta insomma non sono piacevolissimi, però mi diverto molto trovo molto interessante leggere i messaggi che arrivano sia al 349-238-6666, che magari chi mi scrive al mio account Twitter, che è @Giulia_Crivelli, o sulla mia pagina Facebook, e c'è anche chi mi critica per la pronuncia di Trump. È vero, a volte dico Trump, a volte dico Trump, perché ho sempre la tentazione di cercare di pronunciarlo come lo pronuncerebbe un americano. Poi forse è un po' così un esercizio inutile, anche perché effettivamente suona strano. In ogni caso, appunto, anche il Washington Post ha in prima pagina le dichiarazioni del presidente americano contro la Corea del Nord. Torniamo sul Sole 24 Ore, nelle pagine interne. L'inchiesta sul litio e il cobalto, la corsa al litio e il cobalto, il litio in particolare viene anche definito l'oro bianco, lo trovate a pagina 4. Poi un altro sguardo d'insieme sul Sud America di Roberto Darina, pagina 6, per capire, sappiamo il Venezuela in questo momento è il paese nella più forte crisi, però ci sono altri paesi di cui parliamo poco, la Colombia che è appena si spera, uscita da una guerra civile durata decenni, o il Messico, dove che è ancora oggi uno dei paesi più violenti del mondo, soprattutto per via dei signori della droga. E quindi Roberto Darin ci racconta: Sud America, la grande crisi non spaventa Cina e Russia. C'è un'interessante mappa che fa capire quali sono le zone di influenza dove delle grandi potenze, Cina, Russia e naturalmente Stati Uniti. A pagina 9 invece trovate l'inchiesta di Roberto Galullo sulle mafie che si sono insediate in Germania, dove le mafie riciclano in silenzio, nei Länder in particolare del Baden-Württemberg, del Nordrhein-Westfalia. Sono questi due Länder dove l'inchiesta di Galullo ci spiega ci sono più infiltrazioni mafiose, in particolare dell'Andrangheta. A giugno un pool transnazionale di investigatori ha fermato tra Italia e Germania 20 persone per traffico di armi e droga. Come ogni giorno, tranne il sabato e la domenica, quindi questa è l'ottava puntata dell'agenda del professionista, la pagina 16 del dorso di norme e tributi, oggi è dedicato a tutte le norme che regolano le donazioni e le liberalità, quindi le regole contrattuali ma anche fiscali, quando per esempio si tratta di una donazione di immobili ma anche di denaro o di altri beni. Dalle pagine interne del Corriere della Sera parlavamo delle imminenti elezioni politiche in Germania che si terranno in novembre, e il Danilo Taino, che tra l'altro per molti anni è stato corrispondente dalla Germania del Corriere della Sera, ci spiega come si sta muovendo in effetti la campagna elettorale, in particolare la campagna elettorale di Angela Merkel. Merkel lancia la sua Germania ottimista, si accende la corsa elettorale. Quasi tutti i sondaggi continuano a dare in modo abbastanza stabile la cancelliera Angela Merkel e il suo partito, la CDU, in vantaggio sul candidato della SPD di centrosinistra, quindi Martin Schulz, ex presidente del Parlamento europeo, si è dimesso e poi è stato eletto, come sappiamo, Antonio Tajani, si è dimesso proprio per candidarsi contro Angela Merkel. In questo momento il gradimento dei leader sarebbe, secondo un sondaggio di YouGov, al 42% per la Merkel, al 22% per Schulz. Quindi se potesse alla domanda se potesse eleggere direttamente il cancelliere, chi sceglierebbe, le risposte appunto sono state queste. Ci sono molte previsioni anche su come sarà il prossimo Parlamento, e se da qui a novembre non ci sono grandi cambiamenti, la CDU dovrebbe avere il 41% dei seggi e la SPD il 25%, e poi tutti gli altri partiti. Sempre dal Corriere della Sera, tra l'altro approfitto per salutare l'ascoltatore che ci scrive dalla California, dice: sono appena uscito dalla Tesla. Ecco, la Tesla, che naturalmente è il costruttore di auto elettriche di lusso, e sappiamo che Elon Musk, il suo fondatore di origine sudafricana ma da moltissimi anni negli Stati Uniti, ha appena lanciato un nuovo modello di Tesla. Le Tesla naturalmente sono proprio tra quelle auto che hanno bisogno di batterie al litio di nuova generazione, perché come sappiamo un problema delle auto elettriche per ora è ancora la scarsa autonomia. E il Massimo Gaggi da New York dà conto di questa polemica che c'è tra Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che secondo Forbes, secondo le ultime classifiche, è il quinto uomo più ricco al mondo, e Elon Musk, che ha qualche anno in più, ha 13 anni più di Zuckerberg, che ne ha solo 33. Si sono un po' stuzzicati sull'intelligenza artificiale, perché Musk sostiene che i robot sostituiranno gli uomini in tantissime funzioni, e invece Zuckerberg dice: non è vero, è troppo pessimista. E Musk gli ha risposto: beh, tu invece sei un incompetente. Il Corriere della Sera ha anche un bel approfondimento di Claudia Voltattorni su quello che ci aspetta in settembre a scuola, per chi deve mandare i bambini a scuola, perché a parte il problema delle vaccinazioni, che comunque si riproporrà, perché sapete che l'obbligo delle vaccinazioni subordina l'iscrizione a scuola dei bambini, ma a parte questo ci sono anche nodi più strettamente legati all'insegnamento, dall'assegnazione delle cattedre al rebus dei supplenti, tutte le criticità dell'anno scolastico. Forse ricordo, se avete seguito la rassegna di ieri o se avete letto Repubblica di ieri, con l'editoriale del direttore Mario Calabresi, che diceva: dobbiamo spiegare bene che cosa sono le ONG per non fare, come diceva Giuliano Ferrara, attaccarle in un modo anche scorretto. E quindi Repubblica ha iniziato ieri e prosegue oggi questo viaggio nelle ONG per spiegare veramente che cosa fanno. Per esempio, oggi si occupa dell'AFSI, che è che lavora soprattutto nelle zone di guerra, e Medici con l'Africa di Quam, che a loro volta hanno lavorato in tantissimi paesi dell'Africa, dal Sudan. E forse avete sentito ieri con Giampaolo Musumeci in replica stamattina che crisi tremenda ci sia in questo momento nel sud del Sudan, con una carestia che sta mietendo moltissime vittime e che si aggiunge alla guerra civile. In ogni caso, questa organizzazione, per esempio, di medici aiuta soprattutto le emergenze sanitarie in Africa, in tantissimi paesi. Ci fermiamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie ancora a tutti gli ascoltatori, anche a chi effettivamente proprio stamattina mi insulta. Non ripeto l'insulto, ma non è piacevole, ma pazienza, insomma, per fortuna siamo in un paese libero. Il che mi porta anche a citarvi un interessantissimo articolo di Pietro Citati sulla Repubblica, pagina 30 e 31. Si intitola L'uomo che non cambiò la storia, e il riferimento è a Klaus Schenk von Stauffenberg, che come forse molti sanno nel 1944 provò a uccidere Hitler. Era a capo di questo piccolo comando, era un ufficiale, un altissimo ufficiale, che però era preoccupatissimo per il percorso sul quale aveva portato la Germania Hitler. E questo libro, che è appena uscito e si chiama appunto L'uomo che voleva uccidere Hitler, per le edizioni Deoniane, ripercorre la figura di quest'uomo, ma anche ci ricorda che, benché non sia così conosciuta, c'è stata una resistenza in Germania, una resistenza al nazismo. E ricordo anche un altro bellissimo libro di uno storico tedesco, Joachim Fest, scomparso un paio d'anni fa, e anche lui scrisse un libro che si chiamava Obiettivo Hitler, per spiegarci che la resistenza c'è stata e che purtroppo non ha avuto gli effetti sperati. Da qui il titolo, L'uomo che non cambiò la storia. Un articolo interessante, se poi magari vedremo se davvero succederà questa notizia che viene annunciata dal Messaggero. Camere via il tetto agli stipendi d'oro. Ecco, in realtà vedevo proprio con gli occhiali dell'ottimismo. In realtà la notizia non è così buona, perché a dicembre scade la stretta triennale per i dipendenti, è esclusa una proroga, e quindi questa misura, che era una misura di cosiddetta austerity per anche alla Camera far fare qualche sacrificio, dovrebbe essere sospesa. E al che, per esempio, i barbieri potranno tornare ad avere 136.000 euro, erano stati abbassati a 99.000 lordi naturalmente, e i dirigenti torneranno a oltre 240.000, quando invece erano stati abbassati a 166.000. Vedremo se da qui a dicembre, nel frattempo ci saranno state le elezioni in Sicilia in novembre, e grazie all'ascoltatore che mi ricorda, perché probabilmente c'è stato un piccolo cortocircuito, ho parlato di elezioni in Germania in novembre, quelle in novembre sono quelle in Sicilia per la regione, mentre in Germania saranno in settembre. Ecco, vedremo se dopo il test elettorale di novembre e in vista delle elezioni della primavera, questo tetto agli stipendi dei dipendenti della Camera verrà in effetti, finirà, oppure se vi sarà una proroga. Visto che in questi giorni, lo facciamo anche noi su Sole 24 Ore, naturalmente si ricordano un po' i 10 anni della crisi, perché se così simbolicamente si fa iniziare la grande crisi economico-finanziaria al settembre del 2008, quando fallì la Lehman Brothers, la banca d'affari, in realtà i segnali importanti c'erano già stati nel 2007, quindi sono di fatto 10 anni. E quindi, per esempio, ripeto, molti giornali ripercorrono questi 10 anni di crisi, La stampa oggi sceglie di farlo intervistando David Ambinder, lo fa Francesco Semprini, che era all'epoca all'inizio della crisi era capo della divisione Business Support Services di Lehman Brothers. E da banchiere a manager dice: la mia seconda vita dopo Lehman, adesso io ho cambiato completamente mestiere, ristrutturo case, non tornerei a Wall Street neanche per $1 milione, là non hanno imparato nulla. E il riferimento naturalmente è ad alcuni indicatori inquietanti, come per esempio la presenza dei derivati di tutti i generi, che sappiamo sono state una delle cause soprattutto della crisi dei mutui subprime, che insieme a tanti altri fattori hanno zavorrato tutti i sistemi finanziari e poi anche dell'economia reale negli scorsi anni. Questa notizia mi ha lasciato veramente un po' interdetta, la trovate sulla stampa pagina 9, viene dalla Liguria. La prossima Miss Italia la sceglierà anche un prete. Don Piero Lanza ha dato la sua disponibilità per partecipare a questo concorso, alla giuria, per far parte della giuria di questo concorso, e la sua partecipazione si concretizzerà il 15 di agosto. Perché mi lascia interdetta? Perché già il fatto stesso che ancora esistano concorsi di bellezza mi colpisce. Se poi in giuria un prete c'è anche un prete, ancora più interdetta. Molto interessante questo articolo sulla stampa a pagina 38. Di questo tema mi sembra di ricordare avesse parlato anche Alessio Maurizi in una puntata di Si può fare, ed è quello che si è riusciti a fare nella regione Piemonte con un grandissimo risparmio sui farmaci. I costi sono scesi dal 30 al 90%. Perché? Perché tutti i farmaci sono stati messi veramente a gara. Sapete che uno anche per esempio dei problemi italiani in generale, ma che riguarda anche noi come le scelte che possiamo fare quando andiamo in farmacia, è lo scarso utilizzo dei farmaci generici. In ogni caso questa strategia, che è come tutte le strategie per la gestione corretta e efficiente del denaro pubblico, ha bisogno di tempo, ha bisogno di essere ben pensata e poi ben messa in atto. È iniziata 2 anni fa con una nuova strategia regionale partita nel 2015, e in questi 2 anni sono stati risparmiati 10 milioni di euro. Ecco perché calano i prezzi, perché appunto si fanno delle gare serie, però non delle gare necessariamente al ribasso, si cerca di usare il più possibile i farmaci generici e poi naturalmente si controllano molto attentamente tutti i fornitori che rispettino gli accordi. Sull'Avvenire, tanto spazio al Venezuela. Caracas, prove di golpe bianco, la costituente occupa l'aula. Ci sono le accuse dell'ONU a Maduro, ma purtroppo molto spesso l'ONU appare completamente impotente. Abbiamo ricordato nei giorni scorsi l'addio molto polemico di Carla Del Ponte, che era stata chiamata all'ONU dopo essere stata a capo del Tribunale sui crimini di guerra nell'ex Jugoslavia, era stata chiamata all'ONU per fare luce su quello che è successo e sta tuttora succedendo, anche se nessuno ne parla più, in Siria, e se n'è andata dicendo: io non posso fare il mio lavoro, non ho risposto da nessuno, non ho i mezzi per indagare. E questo era appunto un incarico ufficiale dell'ONU. Invece ieri ci sono state le elezioni in Kenya, i risultati definitivi non ci sono ancora, però l'Avvenire si occupa anche di questo. Il Kenya in fila per il suo futuro, in 20 milioni hanno votato sfidando violenze e intimidazioni. Abbiamo parlato di questo già nei giorni scorsi e ci torniamo sul tema di Rio, le Olimpiadi che si sono tenute l'anno scorso a Rio de Janeiro in Brasile. Purtroppo alcuni ascoltatori, dopo che avevamo citato l'articolo, mi hanno ricordato che comunque ci sono anche dei casi nel passato virtuosi dove in realtà le Olimpiadi poi hanno avuto degli effetti molto positivi. Per esempio, non so, qui tra l'altro c'è uno schema, per esempio, dell'eccedenza dei costi rispetto alle previsioni iniziali delle Olimpiadi dal 1968, quelle invernali di Grenoble in Francia, a quelle invernali di Sochi nel 2014, e per esempio il record spetta a Pechino, Olimpiadi estive del 2008, perché l'eccedenza dei costi fu solo del 2%, quando si dice un'economia pianificata. Però quello che è successo a Rio è che la maggior parte delle costruzioni sono già in disuso e povertà. Economisti e urbanisti d'accordo, quello di Rio purtroppo è un bilancio disastroso. Se volete un po' così sorridere, perché a questo punto direi che meglio usare un po' di ironia con Laura Boldrini, che invece è professionista nel prendersi sul serio, perché con tutte le sue imposizioni sul fatto, lei vuole essere chiamata la presidenta, vorrebbe che tutti i sindaci donne fossero chiamate sindache, il giornale, che per carità non perde occasione per attaccarla, però lei davvero dà molte occasioni, definisce quella della Boldrini un'ossessione linguistica della presidenta che scatena la rivolta dei dipendenti, perché quello che secondo il giornale Laura Boldrini sta facendo è un diktat sessista. I segretari per parlamentari, se donne, dovranno essere chiamate segretarie oppure non entreranno. E naturalmente è anche un'occasione per riaccendere la polemica sul cosiddetto gender, che poi vuol dire semplicemente genere, ma sapete che si parla molto di genderless, cioè del fatto che le distinzioni per genere tra i due generi che tutti abbiamo imparato a riconoscere, cioè quello femminile e quello maschile, si stanno un po' diventando sempre più labili, e c'è chi si oppone a questo, quello che viene definita una deriva, o magari per altri invece un'evoluzione. Vi segnalo l'ultimissima segnalazione che faccio per oggi da Libero, uno studio della Camera di Commercio di Milano: volano le imprese che si occupano di cani e gatti. E tra l'altro su questo tema è anche appena uscito un libro molto interessante che si chiama Pet Economy, che spiega appunto come siano aumentati i nostri animali domestici, ma anche tutte le spese annesse e connesse. In Lombardia, pensate, nella sola Lombardia, il giro d'affari è aumentato in un anno del 4,3%, in crescita il numero di esercizi commerciali e le aziende per gli animali da compagnia, perché oltre naturalmente a tutte le aziende che producono cibo, alimenti per gli animali, e parliamo anche di conigli, pappagalli, cavie, ci sono anche, stanno crescendo molto i cosiddetti asili dove si possono lasciare i propri animali domestici. Era l'ultima segnalazione per oggi, prevedo messaggi in cui mi prenderanno molto in giro per averla fatta, ma pazienza, il tema mi sta a cuore. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, appuntamento a domani.